penso che è ammalato e quindi oggi non riuscirà a venire e fermo a Milano con 39 di febbre. Avevamo provato a pensare anche oggi pomeriggio in fretta e in furia magari anche a un collegamento via Skype, il problema è che è ammalato proprio pesantemente ed è anche afono, quindi vi sto raccontando un paio di cose sue personali, ma in realtà me l'ha proprio scritto e non c'è verso neanche di stabilire un collegamento. Siamo molto rammaricati anche perché chiaramente queste cose accadono così, è la prima volta in 20 anni che di 5 iniziative alla settimana che organizziamo e quindi dobbiamo un po' arrangiarci per salvare il salvato. Allora, la proposta che vi facciamo è la seguente: se avete piacere di stare qui con noi comunque, ci sarà Giovanni Accardo che avrebbe fatto e farà da moderatore lo stesso, ci racconterà come è nato questo libro, perché Balzano ha avuto questa idea, questa ispirazione, come è arrivato a raccontare il nostro territorio una persona, un giovane che viene da Milano, e Alessia ed io leggeremo alcune pagine per così inquadrare un po' il tempo. Però vi avviso appunto purtroppo che l'autore è appunto ammalato e anche questo collegamento Skype, ho avuto la conferma pochi minuti fa, non sarà praticante. Verrà un'altra volta? Verrà un'altra volta, sì, abbiamo un carnet pieno di eventi, quindi può essere anche che in febbraio ritorni, perché c'è una meta idea di riproporre comunque anche in febbraio. Febbraio? L'iniziativa, in febbraio, sì, però la data ancora tutta da lavorare. Giovanni, cosa dici? Ecco, Giovanni Accardo lo conoscete? Aveva già in aprile presentato il libro presso una libreria cittadina e quindi ha avuto anche modo di conoscere personalmente l'autore. Beh, io sono molto più imbarazzato di Valeria, anche perché tra me e Marco Balzano c'è una grossa differenza, lui ha tanti capelli e quindi non posso neanche fingere di essere io. Sì, purtroppo già ieri sera mi aveva scritto che stava molto male, stamattina poi ha provato, poveretto, a riempirsi di tachipirina, ma a 39 di febbre, senza voce. Lui ci teneva molto a questa presentazione perché ovviamente, come ben sapete, come si vede anche dalla copertina, è una storia che è nata quasi. C'è stata una sciagurata presentazione nel mese di aprile, dico sciagurata perché è stato un sabato mattina, quindi c'erano pochissime persone alla libreria Olimpica, quindi ci teneva a replicare, soprattutto a distanza di mesi, perché immagino che molti di voi abbiano già letto il libro e magari avevano curiosità di chiedere qualcosa, e poi non posso rispondere, non posso neanche farvi l'autografo perché non ho avuto la delega, e quindi giustamente io avevo detto a Valeria: mettiamo un cartello incontro annullato. Lei dice: no, non è neanche come dire corretto nei confronti del pubblico che segue sempre le iniziative del Centro Trevi. Poi navigavamo sul minuto, no? Perché sembrava che almeno uno Skype si potesse fare, e invece fino all'ultimo. Quindi chi ha letto il libro vuole raccontare qualcosa? volete raccontare voi di questo libro? Io posso dire due cose, ma che forse già sapete. No, non sono Marco Balzano, non preoccupate, non ha tagliato i capelli, perché vedevo già con la faccia preoccupata. Ah, lei riconosce? Ah, chiedo scusa. E dicevamo che purtroppo Marco Balzano ha letto senza voce con 39 di febbre, quindi ha detto, come diceva prima Valeria, resto qui, cioè resta a casa sua. E, dunque, questo è un romanzo scritto da un uomo di pianura, cioè un milanese, che racconta come solo un grande scrittore di montagna sa fare una grande epopea, la storia soprattutto di una donna e della sua famiglia. E Marco Balzano si trovava in vacanza in Alto Adige, come tanti vanno alla Lodirezia, lui vede le persone che fanno le foto, però resta molto impressionato da questa immagine di copertina. E dice: le persone fotografano quello che si vede, ma sotto cosa c'è? Cioè sotto il lago, ma sotto cosa è successo? E immediatamente da grande scrittore capisce che sotto si nasconde una grande storia e si incuriosisce molto, e allora comincia a informarsi, comincia a documentarsi, diventa, come spesso succede agli scrittori, una vera e propria ossessione, e comincia a documentarsi intanto attraverso la rete, poi comincia a contattare le persone del luogo, e comincia a contattare anche degli studiosi, per esempio Carlo Romeo, che molti di voi conoscono, che è uno storico molto esperto nella storia dell'Alto Adige, e comincia a riempirsi di libri e di letture per ricostruire la storia. E nella sua ricerca si imbatte in una foto che è quella che in particolare gli dà l'idea del titolo Resto Qui, perché è una foto di una donna anziana in piedi su un tavolo in una casa già piena d'acqua. Questa donna non vuole lasciare la sua terra. È una situazione che abbiamo anche visto recentemente, per esempio nel terremoto che c'è stato nelle Marche, la difficoltà di lasciare e di andare via dalla propria terra. E allora concepisce questo romanzo proprio come una storia di resistenza, una resistenza femminile, proprio per l'immagine della donna. Ed è un libro che, come sapete, sa che vi ha detto, è strutturato come una lettera alla propria figlia. Quindi una donna a una ragazzina, una bambina, che a un certo punto sparisce, e di cui non, ovviamente non vi dico nulla perché chi non l'ha letto deve poi leggerlo e scoprire cosa è successo, come mai è sparita, dove è andata a finire. Ma non è soltanto la storia, diciamo, di cosa succede. Ah, un'altra cosa importante da dire, che Marco ha cercato di contattare anche la Montecatini, che è la società che ha fatto l'operazione del lago per ragioni di produzione di energia idroelettrica, ma nessuno l'ha voluto ricevere, nessuno gli ha voluto mettere a disposizione materiale per avere anche informazione dalla parte di chi ha inondato e allagato il paese. Poi ho scoperto recentemente, l'ha detto una mia collega, che alla biblioteca, no, all'archivio di Stato, in realtà esiste molto materiale, evidentemente lui non lo sapeva, e c'è diverso materiale che ricostruisce, cioè documenti e corrispondenza legata a questa storia. Allora, è la storia di un luogo ben preciso, nel paesino della Val Venosta, Curone, che viene sommerso dal lago, dall'acqua, che è un lago artificiale. È la storia di una famiglia, in particolare una donna che si chiama Trina, il cui nome riprende dal nome di sua figlia Caterina, quindi è un omaggio da parte femminile della sua famiglia, e però allo stesso tempo ne fa un affresco più grande, cioè lo inserisce all'interno di una storia più grande, perché racconta cosa succede in questa terra con l'arrivo, con l'italianizzazione, l'arrivo del fascismo, poi lo scoppio della seconda guerra mondiale, l'armistizio, il dopoguerra e poi gli anni 50 e la fine di tutta questa vicenda. E il romanzo, come sapete, ha avuto molto successo, secondo me per due ragioni. Uno, per la lingua con cui è scritta, una lingua cristallina, una lingua molto, molto, molto godibile, ma anche una lingua molto emotiva, cioè una lingua che ti trasporta dentro la storia, e poi per la storia che veramente ti incuriosisce, soprattutto quando sparisce la figlia e tu vuoi sapere dove è finita. Quindi questa è stata la grande trovata, che diciamo è il grande snodo narrativo che ti lega alla storia fino alla fine. Il romanzo è diviso in tre parti: la prima parte sono gli anni del fascismo, la seconda parte gli anni della seconda guerra mondiale, la terza parte il secondo dopoguerra, e quindi il momento in cui i lavori, nonostante l'opposizione, i tentativi di resistenza appunto di tanti cittadini, il lavoro della Liga comincia a portare pochissimi operai dal resto d'Italia e comincia a delinearsi in maniera inequivocabile. E, facciamo qualche lettura. Io pensavo ci avrebbero linciati, invece sono bravissimo ad ascoltare molto e non c'entrare niente con questa storia. Il mio unico legame con questa storia è il fatto di aver già presentato il libro, conoscere Marco Balzano, e averlo anche invitato a scuola a febbraio. 160 studenti del liceo Fabio e del liceo Carducci lo incontreranno, speriamo che la salute sia clemente, perché appunto i ragazzi altrimenti resterebbero molto molto delusi. Allora il libro comincia così. Non sai niente di me, eppure sei tanto, perché sei mia figlia. L'odore della pelle, il calore del fiato, i nervi tesi, te li ho dati io. Dunque ti parlerò come a chi mi ha visto dentro. Saprei descriverti nei miei particolari, anzi certe mattine che la neve alta e la casa avvolta da un silenzio che mozza il respiro, mi vengono in mente nuovi dettagli. Qualche settimana fa mi sono ricordata di un piccolo nero che avevi sulla spalla e che quando ti facevi il bagno nella pinozza mi indicavi sempre. Ti ossessionava. O quel boccolo dietro l'orecchio, l'unico in quei capelli color miele. Le poche fotografie che conservo le tiro fuori con una potenza. Col tempo si diventa di lacrima facile e io odio piangere. Odio piangere perché dai occhi e perché non mi consola. Mi fa solo sentire spossata, senza più voglia di mandare giù un boccone o di infilarmi la camicia da notte prima di andare a dormire. Invece bisogna curarsi. Stringere i pugni anche quando la pelle delle mani si copre di macchie, lottare a prescindere, questo mi ha insegnato tuo padre. E da qui parte questa storia, come vedete ha una voce molto, molto netta, una voce indubbiamente femminile, ma nel senso della forza che appunto solo una madre ha. E Trina è una maestra, vorrebbe insegnare perché quello ha studiato, ma come saprete arriva il fascismo a Bolzano, c'è la famosa marcia su Bolzano e l'italianizzazione violenta che vieta la lingua italiana e vieta l'insegnamento in lingua italiana. Quindi lei, che è una che non si arrende mai, però dietro suggerimento del prete del paese decide comunque di continuare a insegnare nelle catacombe sciule, quindi nascosti nelle cantine, a rischio naturalmente perché la sua compagna che viene scoperta viene arrestata, viene allontanata e quindi era proprio un reato. Vogliamo leggere? No, devi aiutarmi, perché io a fare Marco Balzano sto sudando tantissimo, c'è una sauna. Balzano parla appunto della Valle Nostra, parla di Curo Venosta, è rimasto così colpito, stupito e incuriosito da questo campanile che emerge dalle acque di un lago artificiale, ma questa storia, diciamo, dell'energia elettrica, dell'acqua bianca, è già stata in parte, non con il risvolto umano e non con questa storia, diciamo, folesche del giallo che ha sapientemente messo insieme Balzano, ma è stata in parte toccata con un rigore storiografico, direi, da Andrea Rossi in Acqua Bianca alcuni anni fa, e questo ha scelto come voce narrante un ragazzino che a seguito del padre si trasferisce in Valle Nostra, per la verità lui più nella zona di Lacces, quindi c'è, sì, di Lacces, quindi c'è anche la commistione con le cave di marmo, con questo piano di lana che viene, ecco, ideato per la prima volta proprio in questo cantiere. Ma questa dimensione dello stravolgimento della valle, di questa presenza massiccia che porta a un impianto così consistente come quello poi della Monte Addison, è in parte toccato con altri tagli, con un altro aspetto, sicuramente anche da Andrea Rossi. E il mio compito è quello di suggerirvi anche varie chiavi di lettura, quindi stasera ci concentriamo sul resto qui di Balzano, ma vi ricordo che ci sono anche altri libri se avrete piacere di tornare in biblioteca. E un'altra cosa che mi viene in mente invece è l'aspetto giuridico e poetico, che è stato toccato invece in numerose poesie e racconti da Sertman, che è appunto originario della valle, quindi ha una, che risvolge molto il autobiografico e soprattutto una delicatezza, una nostalgia in certi momenti dei propri racconti e anche delle poesie, che meriterebbe, per chi forse non ha avuto magari l'occasione di incontrarli e conoscere questo autore, di approfondirlo, perché effettivamente anche lui riporta una dimensione molto umana di questo aspetto, di questa vicenda, oltre che a me piacerebbe coltivare anche un aspetto memorialistico come biblioteca, perché la comunità della Valle Nostra è anche una comunità politica, giustamente in quell'epoca questi lavori, questa industrializzazione, queste centrali avevano portato a un cambiamento demografico anche molto veloce, in parte le persone sono rimaste, anche se poi la Valle Nostra ultimamente ha conosciuto dei cambiamenti notevoli, insomma anni fa è stato chiuso anche il liceo, insomma, quindi ci sono state delle occasioni di aggregazione che sono venute meno, ma è una valle ancora molto interessante e di transito, che forse anche per la memorialistica potrebbe essere tutta ancora. Sì, visto che ha citato Sertman, possiamo suggerire un bellissimo romanzo, breve ma molto intenso, molto poetico, che è L'immagine della ferita, e racconta, è ambientato tra la Valle Nostra e Bolzano, racconta proprio gli anni del terrorismo, raccontato dal punto di vista di un ragazzino il cui padre, lo si scoprirà, si fa coinvolgere nel periodo degli attentati degli anni 60. Andiamo avanti. Vuoi leggere quella parte sul fascismo? Sì. Nella primavera del 23 mi preparavo per l'esame di maturità. Mussolini aveva aspettato proprio il mio diploma per travolgere la scuola. L'anno prima c'era stata la marcia su Bolzano, con i fascisti che avevano messo a ferro e fuoco la città. Hanno incendiato gli edifici pubblici, pestato gente, cacciato con forza il borgomastro. E come al solito i carabinieri sono rimasti a guardare. Senza le loro braccia conserve e senza quelle del grande fascismo non ci sarebbe stato. Ancora oggi camminare per Bolzano mi scombussola. Tutto mi sembra ostile. I segni del ventennio sono tanti e a rivederli mi viene in mente Erich, quanto si consumerebbe dalla rabbia. Fino a quel momento, specie in queste valli di confine, la vita era scandita dai ritmi della stagione. Sembrava che quassù la storia non arrivasse. Era un eco che si perdeva. La lingua era tedesca, la religione quella cristiana, il lavoro quello dei campi e delle strade. Non c'era da aggiungere altro per capire questa gente di montagna di cui fai parte anche tu, se non altro perché ci sei nato. Mussolini ha fatto ribattezzare strade, uccelli, montagne, ma sono andati a molestare anche i morti, quegli assassini, cambiando le scritte sulle lapidi. Hanno italianizzato i nostri nomi, sostituito le insegne dei negozi. Ci hanno proibito di indossare i nostri vestiti. Da un giorno all'altro in classe ci siamo ritrovati insegnanti veneti, lombardi, siciliani. Loro non ci capivano, noi non capivamo loro. L'italiano qui su Tirolo era una lingua esotica, si sentiva da qualche grammofono o quando arrivava un venditore dalla Vallanza che saliva al Trentino per andare a commerciare in Austria. Ecco, quindi la prima parte racconta sostanzialmente gli anni del fascismo, l'incontro tra Trina e Erich, che diventerà il marito, con cui faranno due figli, la loro vita, la vita di montagna, con una straordinaria capacità mimetica, ripeto, di uno scrittore che vive a Milano e che è stato in Alto Adige solo come turista, e però evidentemente quello che accade in questa terra è stato per lui così, così forte che ha voluto scriverci un romanzo frutto di 3 anni di studio e di lavoro. E ovviamente la storia, tipo la grande storia, non quella dei personaggi, va avanti e si arriva all'epoca delle opzioni. Sì. Il fascismo sembrava esistere da sempre. Da sempre c'era stato il municipio col potestà, i suoi carabinieri, Da sempre c'era la facciata delle luci appese ai muri, da sempre c'erano i carabinieri che venivano a mettere il naso nei fatti nostri e ci obbligavano ad andare in piazza per ascoltare gli annunci. Ci eravamo abituati a non essere più noi stessi. La nostra rabbia cresceva, ma i giorni correvano veloci e il bisogno di sopravvivere la trasformava in qualcosa di debole e sfibrato. Simile alla malinconia diventava la nostra rabbia, non esplodeva mai. Sperare in Adolf Hitler era la ribellione più vera. Quella ribellione si faceva palpabile ai tavoli dell'osteria, nei trovi clandestini dove gli uomini si davano appuntamento per leggere i giornali tedeschi, ma svaporava quando soli nelle stalle mungevano le mucche e si incamminavano verso la fontana di setarlo. Sonnecchiamo così, indolenti e repressi, fino all'estate del 39, quando i tedeschi di Hitler vennero ad annunciare che se lo volevamo potevamo entrare nel Reich e lasciare l'Italia. La chiamarono la grande opzione. Il paese fu subito festa. La gente per strada esultava, i bambini senza capire saltavano in cerchio, i ragazzi si abbracciavano pronti a partire, gli uomini passavano di fianco ai carabinieri offendendoli in tedesco. I carabinieri adesso restavano zitti, con le mani sui manganelli e il capo chino. Mussolini aveva voluto così. Quel giorno Erich restò in casa a fumare e non mi rivolse parola. Quando Lorenz bussò alla porta per dire che andava all'osteria a festeggiare, non lo accompagnò. Lorenz tornò ubriaco a notte fonda e prima di rientrare volle parlare con Erich, che dormiva da un pezzo. Io ero in vestaglia e quando sentii bussare mi appoggiai una coperta sulle spalle prima di aprirgli la porta. Mi scassò senza salutarmi, andò in camera reggendosi ai muri, gli sedette vicino e disse: io prima o poi mi andrò perché non ho radici da nessuna parte, ma se per te questo posto ha un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, non devi avere paura di restare. E gli abbracciò la testa. Ecco appunto il titolo, no? Ripeto, resto qui, non è solo legato all'episodio della diga, ovvero del lago, ma è tutta una storia di resistenza, anche nel caso delle opzioni. Trina, soprattutto il marito, non vogliono lasciare la Lonterra. Perché andare in Germania? Perché lasciare la terra in cui si è nati, in cui sono nati i propri genitori? Quindi il tema del legame forte con la propria terra. Però nel frattempo che la storia va avanti, nel frattempo che Trina vive una serie di situazioni familiari molto, molto forti, ecco che cominciano ad arrivare quelli della Montecatini che vogliono portare avanti il loro business, come si dice. Sembrano i Men in Black, sai, questa descrizione. Qualche sera più tardi, da un'automobile nera scesero due tizi in giacca e cravatta. Uno era svizzero, l'altro grasso. Ci invitarono all'osteria e noi dietro come pecore. Appena si sedettero, li circondavamo facendo di ressa attorno. Ordinarono in tedesco un boccale di birra per tutti. Bevemmo, chi timido, chi un fiato. Ci manda il governo, veniamo da Roma, continuarono nella nostra lingua. Hanno approvato un vecchio decreto che prevede la costruzione della diga. Sarà un sistema complesso di dighe che riguarderà molti dei paesi della valle. Dicevano poche parole per volte, un tedesco innaturale e preciso, poi tiravano un sorso di birra, pulendosi la schiuma col dorso delle mani pelose. Io mi tenevo al braccio di Erich, che mi ripeteva di non andare via. I 4 metri alzerete il livello dell'acqua, chiese un contadino. Ancora non lo sappiamo. E se l'acqua ricoprirà le nostre case? Domandò un altro. Ne costruiremo altre nelle vicinanze, disse lo smilzo, più grandi e più moderni, aggiunse il grasso, che aveva bassi sottili e un'aria indifferente alle sue stesse parole. Adesso però non dovete allarmarvi, questi lavori dureranno anni, spesso decenni durano, aggiunse guardando nel boccale. Subito le voci dei contadini si accalcarono una sull'altra. quelli sorrisero dei nostri modi villani, impassibili dietro i loro abiti di lana fina. Aspettarono che il chiasso si smorzasse e poi aggiunsero: chi perderà il capo riceverà un indennizzo. Qualcuno gridò che le sue mucche non mangiavano indennizzi. Altri batterono pugni, bestemmiarono, dicendo che senza i capi e le bestie sarebbero crepati di fame. «E se non accettiamo il vostro indennizzo?» chiese Erich. Alla voce di Erich tutti ammutolirono. I due svuotarono lentamente i boccali e scrollarono le spalle. Ci guardarono con facce inespressive. Il silenzio adesso era teso e sarebbe bastata una parola storta per trasformarlo in baruffa. Si pulirono ancora col dorso delle mani e finalmente si alzarono, fendendo la folla. Qualcuno trovò il coraggio di ripetere la domanda solo quando erano già fuori dall'osteria e l'odore della terra bagnata e del fieno era penetrante. Quell'aria fece ingoiare la saliva, la vista del campanile tirare lunghi sospiri. Si vedevano in lontananza le donne con i figli addormentati in braccio, le bocche attaccate ai vetri delle finestre che si appannavano col fiato. Prima di salire in macchina, lo smilzo disse: «Se non accettate l'indennizzo, nasceranno problemi. Esiste una legge che si chiama espropriazione forzata», annunciò il grasso prima di sbattere la portiera. Quando l'automobile partì, l'aria non profumava più di terra bagnata né di fieno, ma si impregnò di nafta. Restammo tossire finché non sparì dietro la curva. Io e Erich tornammo a casa costeggiando il sentiero in silenzio. C'era una cascata di stelle e la luna sembrava tendere il cielo. I grilli venivano il coro. Arriva il giorno che, se vuoi mantenere la dignità, devi ammazzare qualcuno, disse, lasciando cadere un fiammifero. Ecco, il temperamento di Erich, appunto, è molto, molto deciso, e questo si vedrà molto bene quando scoppierà la seconda guerra mondiale e qualcuno accoglierà, diciamo, l'idea del nazismo come una sorta di liberazione per questa terra. Il libro dice che c'è in due parti. La seconda parte è ambientata durante la seconda guerra mondiale, in particolare racconta la fuga dopo l'armistizio di Erich e Trina. Non vi racconto nulla perché è molto bello da leggere, secondo me è la parte più riuscita del libro. Veramente io mi sono stupito e ho chiesto a Marco Balzano come hai fatto a raccontare tutti questi mesi, la fuga nei boschi, in mezzo alla neve, in mezzo al freddo, in mezzo alla fame, come se l'avessi veramente vissuta. A me sono venuti in mente i libri migliori di Mario Rigoni Sterner, uomo però che invece queste esperienze le conosceva, un uomo di montagna. E lui mi ha detto che per cercare di immedesimarsi in questa condizione ha letto molti libri della letteratura italiana del neorealismo, in particolare libri in cui ci fosse molto freddo, quindi quelli di Mario Rigoni Sterner, i libri di Beppe Fenoglio sulla guerra partigiana, ma in particolare un libro che è stato molto importante per lui per trovare questo punto di vista e questa voce femminile è stato L'Agnese va a morire di Renata Viganò, che è un racconto della guerra partigiana dal punto di vista femminile. Quindi c'è da una parte la documentazione storica, quindi la documentazione su cosa è successo, poi lui ha incontrato dei testimoni, ha incontrato chi in qualche modo è stato coinvolto direttamente, si è documentato sui fatti storici che si trovano solo sui libri, però nello stesso tempo ha, poiché non è un libro di storia ma è un romanzo, ha dovuto nutrire il suo immaginario attraverso le letture. Ecco, secondo me, poi se qualcuno di voi vuole aggiungersi, fa piacere, secondo me la parte più bella, quella che mi ha emozionato e mi ha molto stupito sulla bravura di Marco Balzano, è proprio questa seconda parte, che è ricca di tensione, di emozioni, anche di colpi di scena, e soprattutto molto credibile. Mentre mi ha convinto meno la terza parte, perché forse meritava una ventina di pagine in più, l'avrei mi sarei aspettato qualche altro momento particolarmente drammatico. E l'altra lettura che avevamo... Sì, certo, intanto io vedo quella lettura. Sicuramente Balzano conosce anche la storia del territorio. Ecco, intanto perché già dopo ci dirai che... Morirono tanti nell'Europa dell'Est, altri in Russia, sulle rive del Don. Vennero a consegnare i telegrammi tutti lo stesso giorno e l'ufficiale li lasciò nelle mani delle donne guardandosi gli scarponi e toccandosi la visiera del cappello prima di salire sulla motoretta. Il prete fece suonare le campane a morto fino a sera. L'osteria si svuotò e Eric disse che i corpi non sarebbero tornati indietro e che bisognava chiedere al podestà di fare una lapide collettiva. Sempre più spesso in paese arrivavano militari tedeschi dicendo che presto il Sud Tirolo sarebbe diventato una regione del Reich. Qualcuno ne acclamava, altri ci giravano la larga. Karl era riuscito a procurarsi una radio. Gli uomini si radunavano per ascoltarla e lui si lamentava che nessuno ordinava più da bere e più presto l'avrebbe spaccata a martellate. Anche egli andava all'osteria ad ascoltare la radio. Ne riferiva che il Duce faceva sempre più programmi trionfalistici, segno che le cose giravano male. Papà, tra poco dovrei darvi le marci, disse la sera Michele. Erich scansò il piatto, lo guardò in faccia e rispose: se ti arruoli con i tedeschi, non mettere più piede in questa casa. Ecco, qui c'è la grande, appunto, il grande momento di contrapposizione tra padre e figlio. Il padre che non intende minimamente arrendersi al nazismo, arruolarsi all'esercito del Reich, il figlio che invece è orgoglioso di indossare quella divisa. E qui appunto comincia la parte della grande fuga in mezzo alla neve, al freddo, all'inverno, di cui io non direi molto a chi non l'ha letto per non perdere il gusto di scoprire quello che succede. E la terza parte racconta il ritorno a casa, ed è un ritorno veramente molto bello, molto intenso, cioè è riuscito a immaginare un ritorno nella casa che è stata chiusa, la guerra è finita, e quel senso da un lato di liberazione, ma anche la grande povertà di quel momento storico, e ancora una volta questo forte legame con la terra, il tentativo di fermare in tutti i modi il progetto della Montecatini, fanno una lettera a De Gasperi, dicono De Gasperi che quasi un nostro conterraneo ci capirà, si fanno ricevere dal Papa, insomma è una comunità che tenta in tutti i modi di difendere la propria terra, e questo per noi che viviamo qua, insomma sappiamo quanto in modo particolare i sudtirolesi di lingua tedesca abbiano molto forte questo legame con la propria terra, e Marco Balzano è riuscito, attraverso le letture, attraverso le testimonianze, a coglierlo veramente e immedesimarsi moltissimo in queste vicende. Valeria, forse si è ripresa, voleva dire qualcosa. Mi ha colpito, diciamo, la sapienza con cui ha anche costruito lo sfondo storico, ha toccato tutti gli argomenti, non ha trascurato un aspetto, diciamo, questo giovane scrittore, e sicuramente gli ha dato merito anche di essere riuscito a descrivere lui, proveniente da un'altra regione, anche da un altro periodo, con grande verosimiglianza, veridicità, una parte, una storia che non sempre così conosciuta, ecco, come quella della Val Venosta, di una parte dell'Alto Adige, che magari è più noto, anche ha più successo anche ultimamente nell'ambito dei media, però in realtà ci sono degli aspetti trascurati o comunque ancora non del tutto noti. Questo mi ha colpito, ecco, è riuscito a ricostruire l'ambientare storicamente in maniera precisa. Però la domanda che volevo farti era appunto questo: perché ci sono questi scrittori che subiscono il fascino del nostro territorio e della nostra storia, come appunto Francesca Melandri, ma adesso appunto anche Marco Balzano, e ci raccontano questo territorio con una lente, con un occhiale, ecco, diverso da quello che forse potremmo fare noi? Se sì, ecco, questa è una domanda che ti pongo, e soprattutto se ti sei fatto un'idea come mai possa essere così affascinante, e se il modo di raccontare la tua vita da parte di chi non ci vive necessariamente possa essere una maniera diversa per farlo conoscere anche a noi. Ma ovviamente noi siamo troppo immersi in questa storia, per cui a volte è anche difficile trovare la giusta distanza e il giusto punto di vista. E la bellezza di questo romanzo sta proprio nel punto di vista, nella voce narrante che lui ha trovato, la voce di Trina, questo personaggio femminile. E noi siamo troppo coinvolti anche in questo gioco dei reciproci vittimismi, ognuno ha un torto da recriminare, qual è il punto di vista giusto su questo, su quello. Quindi secondo me è più facile chi viene da fuori a quel distacco, come se vedesse la storia dall'alto senza esserne coinvolto. E poi è una storia, io sono qui da 20 anni, sono siciliano, ma quando racconto in Sicilia, tutti hanno un sacco di domande, un sacco di curiosità, perché è una terra che ha una storia molto, molto particolare, è una storia unica che indubbiamente incuriosisce ancora oggi, una terra dove non si sa chi è la minoranza, chi è la maggioranza, cosa vuol dire la convivenza, quando tu dici il patentino, cioè cose per noi scontate, dico come, cos'è il patentino, cosa vuol dire? Cioè ci sono tante cose che incuriosiscono. Il problema è trovare la storia e trovare, che è la cosa più difficile quando si scrive, il punto di vista da cui raccontare questa storia, perché il punto di vista di Marco Balzano tutto sommato non è per niente ideologico, non è che ha messo gli uni contro gli altri, perché ha raccontato la storia è andata così, ma ha raccontato una storia intima in cui ci si può riconoscere chiunque, e forse proprio per questo il romanzo ha avuto e continua a avere molto successo. Come sapete, è arrivato secondo al premio Streghe, è stato acquistato già subito, ancora prima di essere pubblicato, da diversi editori stranieri, quindi sarà tradotto in tantissime lingue, esattamente come quella della Melandri. Quindi la storia dell'Alto Adige è una storia che interessa moltissimo e che fa vendere, insomma, ecco. Io non so più veramente cosa dire, anche perché non vorrei raccontare particolari del libro, perché non ha letto, è meglio che lo scopra da sé per non perdersi il gusto della lettura. Se invece tra di voi qualcuno che ha letto il libro vuole aggiungere qualcosa che noi magari abbiamo trascurato, che ci siamo dimenticato, qualcosa che l'ha particolarmente colpito, ricordo a chi è arrivato da poco che nessuno di noi è Marco Balzano. Mi piacerebbe avere tanti capelli che amo, purtroppo non posso esserlo. Ahimè, per lui ha letto a casa sua a Milano con 39 di febbre, senza voce, quindi ci siamo trovati in questa imbarazzante situazione di raccontare qualcosa noi. Io vi ringrazio molto per la pazienza con cui ci avete ascoltato, e pensavo che tutti si sarebbero alzati, ma andate via perché potete, ce ne frega di voi, insomma, siete molto gentili. Non so se ritornerà, ma non sappiamo, dipende dai suoi impegni anche. Vedremo, insomma, ristabiliremo un contatto e vedremo poi magari nell'altro ci sarà un'occasione. Ecco. Io vi ringrazio anch'io, e volevo appunto ricordarvi sempre nell'ambito della manifestazione Spazio Libro, che è appunto in corso in questi giorni qui anche al Centro Trevi. Domani la biblioteca organizzerà un nuovo incontro alle 17. Saremo però nella sala sotto, dove è appunto il locale della biblioteca, e presenteremo il libro attraverso la regione Trentino Tirolese del 600, poi insieme all'autore Giuseppe Osti con Bruna Maria Dallago Beveri, e anche un'altra autrice, Paola Maria Filippi. Quindi sarà un'altra occasione, un altro contributo della biblioteca a questa iniziativa, a questa manifestazione che da anni si ripete presso il centro Trevi e anche nelle varie biblioteche. Questa è la settimana anche dove ricorre la giornata che si festeggia la biblioteca, quindi insomma siete tutti invitati domani a partecipare alla prossima appunto iniziativa della nostra struttura. Invece lunedì 29 ottobre, sempre in questa sala alle ore 18, faremo un omaggio nel centenario della morte di Andrea Mascagni e verrà presentato un libro scritti sulla musica, quindi questa parte dedicata a quell'aspetto musicale di Andrea Mascagni. Sarà con noi Claudio Chiarura, che è ancora più parte dell'edizione, e poi anche Luciano De Vescovi dell'orchestra Haydn e le figlie, ecco, quindi Lorenzo e Andrea Mascagni, se avete piacere. Posso ricordare il mio appuntamento? Allora, un altro appuntamento che mi vede parte in causa, sempre in questa sala, mercoledì alle 17.30, come diceva Valeria, questa è la rassegna Spazio Libro e quindi è la settimana delle biblioteche, ma anche la settimana dedicata alla lettura, che si inserisce in una iniziativa nazionale voluta dal Ministero dell'Istruzione, che è Libriamoci, e l'ufficio Biblioteca Educazione Permanente ha organizzato un incontro molto interessante dal titolo La lettura come benessere, cioè leggere, dicono che le neuroscienze fa bene alla salute. Allora, a dialogare con me ci saranno tre persone che dita incrociata, speriamo nessuno di questi sia male, sono tre, almeno uno ci sarà. E sono tre persone molto importanti. Uno è Romano Montroni, che è stato per molti anni il direttore della catena delle librerie Feltrinelli, è quello che ha rivoluzionato il modo di concepire la libreria, attualmente è presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero, che ha proprio il compito di promuovere la lettura. E poi ci sarà Fabio Stassi, che è uno scrittore che è stato ospite di Spazio Libro un paio di anni fa, il quale ha curato l'edizione italiana di un libro che si intitola Curarsi con i libri, dove per ogni patologia viene indicato una lettura o due letture che possono far bene, e sarà il libro che verrà regalato ai partecipanti all'incontro. Dalla lettura di questo libro, Fabio Stassi ha inventato un personaggio letterario che è il biblioterapeuta Vince Corso, e quindi ha scritto due romanzi, il primo La lettrice scomparsa, che è un giallo che è stato talmente apprezzato che ha vinto il premio Scerbanenko, in cui ci sono le persone che vanno dal biblioterapeuta a raccontare le proprie sofferenze, lui cerca di curarle con le letture. E il terzo ospite sarà Guido Vitiello, che è un sociologo dell'Università La Sapienza di Roma, che però nel giornale della rivista internazionale ha una rubrica che si intitola Il bibliopatologo risponde, cioè lui risponde alle lettere legate alle patologie della lettura. Io penso che sia un bel incontro alle 17.30 in questo, sì, sempre in questa sala, e ecco, parleremo di se davvero la lettura fa bene, e l'ufficio biblioteche regala questo volume pubblicato a Sellerio, Curarsi con i libri. Bene, abbiamo una settimana bella. Sì, una bella cosa, guardate, appunto c'è questo giornale che pubblicizza tutte le iniziative, molte sono riservate alle scuole, sono nelle scuole, comunque ci sono tante iniziative di cui ringraziamo i tanti organizzatori, soprattutto le biblioteche. Proprio da non sul tirolese vorrei dire una cosa che per voi è scontata, ma guardate che nel resto d'Italia non c'è questa rete di biblioteche, uno, e non ci sono le biblioteche scolastiche. Cioè tutte le scuole dell'Alto Adige, istituti comprensivi, cioè scuola media, scuola elementare, le scuole superiori hanno una biblioteca con un bibliotecario e una bibliotecaria, con dei libri e delle riviste, ma vi faccio un esempio, la scorsa settimana ho portato la mia prima in visita alla biblioteca del mio liceo, liceo Pascoli, c'è una ragazza che arriva da Treviso e lei ha detto, stiamo parlando della ricca Treviso, non che vi parlo di Agrigento, cioè, ma voi siete dei morti di fame, si capisce. Ma nella ricca Treviso non esiste la biblioteca scolastica, quindi in questa terra ci si lamenta sempre di tutto, c'è un traffico che sembra che a confronto Palermo sia niente, c'è una criminalità che non può girare per le strade, ma le cose belle ben sottolineano che non è di questa terra, è veramente la rete delle biblioteche, cioè ogni quartiere ha una biblioteca fornitissima di libri e riviste, e io ho studiato all'Università di Padova, una ricca e grande città del Veneto, sono state tranquille che questa rete di biblioteche non la trovate, per cui mi sembra giusto sottolineare questo aspetto che speriamo che venga sempre più valorizzato, perché è molto importante, tanto più se le neuroscienze dicono che leggere fa bene alla salute, appunto promuovere la lettura. Grazie a tutti per la vostra pazienza e buona lettura.